Ottava stazione. Le donne di Gerusalemme piangono per Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguì una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Signore, ti preghiamo perché nel cuore delle mamme, nelle famiglie cristiane, si risvegli il desiderio di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. In questo tempo, in cui vi è scarsità di sacerdoti, quando tante parrocchie sono rimaste senza il pastore, e specialmente i nostri giovani sono senza una guida e un riferimento spirituale, vogliamo pregare per le nuove vocazioni. O Gesù, il benessere, il consumismo, l'edonismo fanno crescere spaventosamente l'ateismo nelle famiglie. Vogliamo pregare perché le mamme e i papà possono dare un buon esempio ai propri figli fin dalla tenera età, conducendo una vita cristiana pratica nella fede. La preghiera insieme, la meditazione della parola di Dio e i sacramenti siano il cuore della famiglia. Signore, soltanto la tua grazia e il tuo amore possono ispirare un comportamento cristiano ed evitare che un domani le mamme debbano piangere su se stesse e sui loro figli. Fa, o Gesù, che tutti coloro che vengono qui possano pregare con noi per consacrare le proprie famiglie a te e alla madre. Vogliamo pregare affinché le madri e i papà qui presenti ricevano questa grazia. Iniziare a pregare nel proprio cuore per i sacerdoti, per i confessori, per le vocazioni nella Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù,